Io e Matteo di Ernesto Granese. Episodio numero 56. Il ritorno a Battipaglia. Letto da Marco Torricelli. Erano trascorsi 10 anni dall'ultima volta che avevo messo piede a Battipaglia, la mia città natale. 10 anni dall'ultima occasione in cui avevo potuto rivedere i miei familiari, gli amici e i luoghi della mia infanzia, così cari a me e a Matteo. Dal finestrino del treno, mentre il convoglio rallentava, riconoscevo i tetti delle case, i campi ordinati, i filari di frutteti, il fiume in cui ero caduto da bambino e da cui ero uscito vivo per puro caso. Nulla sembrava cambiato. La stessa quiete, gli stessi scorci di 10 anni prima, quando io e Matteo avevamo lasciato Battipaglia colmi di speranze, progetti e molte illusioni. Il ritorno a Battipaglia suscitò in me emozioni contrastanti. Rivedere i miei vecchi zii e i cugini riportò alla mente la casa d'infanzia, la spiaggia dove rincorrevo i granchi giganti, il torrente che d'estate spariva misteriosamente, la rotonda dove avevo dato il mio primo bacio. Mi chiesi che fine avesse fatto quella ragazzina che avevo tanto amato, con tutta la passione acerba della prima adolescenza. E poi Battipaglia, più banalmente, significava anche le mozzarelle di bufala e la pizza, di cui ero ghiotto. Ne avrei mangiate a volontà, non fosse altro che per seppellire le sciagure degli ultimi anni. A Battipaglia mi trovai subito bene, come se la città mi attendesse a braccia aperte, dandomi il bentornato. Uscendo dalla stazione, riconobbi alcuni volti. Alcuni erano nuovi, altri sorprendentemente familiari, come Vincenzo, il barista della pasticceria accanto alla stazione. Mio padre mi ci portava da bambino per comprare le sfogliatelle appena fatte e ancora calde. Vederlo ancora lì dietro il bancone fu come rivedere un pezzo della mia memoria. Ad accogliermi trovai i miei genitori, ancora in salute malgrado gli anni, mio cugino Enrico e zio Giuseppe, padre di Matteo, che non vedevo da una vita. Perfino lui, con cui avevo avuto screzi in passato e un ceffone memorabile per una parolaccia detta davanti alle sue figlie, mi ricevette col sorriso. «Più passano gli anni e più assomiglia a tuo padre», mi disse. «Spero solo di non diventare grasso come lui», replicai scherzando. Mia madre rise e mi sussurrò che a casa mi attendevano tante cose buone cucinate da lei. Sapevo bene a cosa alludeva. Mozzarelle fresche, salumi, crocchette di riso, pizzette e dolci di ogni tipo. Attraversando il quartiere di Rosa Iemma, ogni balcone si riempiva di gente festosa che mi salutava. Vicini che non vedevo da decenni, volti segnati dal tempo, ma non dall'oblio. La più chiassosa fu la signora Maria, compagna d'infanzia di mia madre. Sporse la testa dalla finestra della casa accanto e, strillando a squarciagola, mi diede il benvenuto. Quando entrai nella sala da pranzo, la tavola era già imbandita, come in un banchetto di nozze. «Siediti e mangia», disse mia madre. «Raccontaci di te. Come va il lavoro? Hai una fidanzata?» Restai in silenzio per un attimo. Non volevo parlare di Enrica, della nostra storia finita male, né del lavoro part-time alla società dei telefoni, che già detestavo. Preferii cambiare argomento, riempiendomi la bocca di mozzarella per guadagnare tempo. Ma la domanda che temevo di più arrivò puntuale. «E Matteo, che notizie hai di lui?» Le posate tintinnarono sui piatti e il brusio della tavolata si fece più fievole. Mi resi conto che, in fondo, era per questo che tutti mi guardavano con tanta attesa. Volevano che fossi io, il suo compagno, cugino e amico d'infanzia, a colmare il vuoto che Matteo aveva lasciato. Presi un respiro profondo, indeciso su quanto rivelare. «È a Milano. disse zia Anna asciugandosi le mani sul grembiule. Lavora in un centro sociale. Io annuì in silenzio. Conoscevo bene il mondo che frequentava Matteo. Preferì tacere. Non volevo alimentare ansie o preoccupazioni già palpabili nell'aria. Nel frattempo, mio padre era tornato a fare quello che sapeva fare meglio, il rompiscatole di professione, con tanto di diploma. Non gli andava proprio giù che io avessi lasciato crescere i capelli come un capellone hippie. Mi intimò di farmeli tagliare dal suo barriere di fiducia, tale Pasquale Franzoni, un uomo burbero e antipatico dalle forbici facili, aggiungendo che, se non l'avessi fatto io, ci avrebbe pensato lui. La mia stanza era rimasta intatta, esattamente come era quando l'avevo lasciata 10 anni prima, come se nessuno avesse osato entrarvi e violarne l'incantesimo. Tutto era immobile, identico, eppure stranamente vivo. Solo il corridoio aveva subito il trattamento della calce fresca. In fondo a tutto, il ritratto del nonno e quello della cara Valentina, la sorellina scomparsa troppo presto, vegliavano silenziosi. L'antico pendolo continuava imperterrito a scandire le ore con un'aria greve, come un vecchio attore che non vuole abbandonare la scena. Intanto, incalzato dalle domande investigative di mia madre, che avrebbe fatto impallidire il commissario Montalbano, io mi lasciavo svogliatamente sfuggire qualche audace aneddoto. D'un tratto, il mio sguardo si posò su una fisarmonica nuova di zecca, lucida come un gioiello appena realizzato. Babbo, che ne è della tua vecchia fisarmonica? Chiesi, quasi temendo la risposta. Quella rossa? L'ho venduta e ne ho comprata una nuova. Ti piace? Dopo ti suonerò qualcosa, anzi, dopo ti suonerò. Rise, gongolandosi della sua atroce battuta, come un ragazzino che aveva appena raccontato una barzelletta sporca e l'aveva passata liscia. Nei primi giorni del mio ritorno a Battipaglia non facevo che girovagare per casa alla ricerca di qualche reliquia. Ogni oggetto sembrava custodire una storia legata a questa o a quella vicenda familiare, a questa o a quella memoria. Un pomeriggio, mentre mio padre armeggiava con l'annaffiatoio, la mia attenzione fu attratta da un mio vecchio libro di scuola. Sugli scaffali della libreria del salotto trovai una copia dei Promessi Sposi. Mi fermai a fissarla, incredulo, chiedendomi che ci facesse ancora là, tra i miei vecchi libri di scuola. Mio padre aveva aggiustato la copertina, rincollato le pagine e l'aveva risistemata nella mia cameretta, tra le mie cose. Sfogliando le prime pagine, fui subito risucchiato indietro nel tempo, tra i banchi della seconda classe delle magistrali, le voci dei professori e il profumo di libri nuovi. Quel celebre ramo del lago di Como mi riportò a quando io e Matteo eravamo come fratelli, inseparabili compagni di giochi e di avventure. Poi, inevitabilmente, io e mio padre finimmo in veranda a sorseggiare un bicchierino di limoncello fresco, giallo e brillante come un raggio di sole, ma in forma liquida. La veranda era il suo piccolo regno botanico. Piante e fiori, coccolati da anni di cure maniacali, esplodevano in una tavolozza di colori accesi. Api indaffarate volteggiavano tra petali e corolle, come impazzite. Là, immerso in quell'angolo di pace, lontano dal fracasso della città, ebbi l'impressione di rinascere. Provai a confidarmi con mio padre, parlandogli delle mie ansie, delle mie disavventure sentimentali e del mio progressivo allontanamento da Matteo. Dopo l'esperienza comune alla cooperativa, i nostri rapporti si sono fatti difficili, spiegai. Non ci vediamo più da un pezzo, e dire che un tempo eravamo inseparabili. Non ti crucciare, mi rispose mio padre. Vedrai che anche lui tornerà presto all'ovile, come te del resto.